quale sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori di Radio Alma, ma in particolare a coloro che si sono sintonizzati in questo momento per ascoltare i colori dell'anima. Buonasera da me, Rosanna. E buonasera da me, Carla. Rosanna, ma sai, c'è una voce proprio radiofonica, sai che dal vivo rendi. È il raffreddore. No, ma sei non lo so, c'è qualcosa di accattivante. Oltre alla la chioma, che stasera la vedo particolarmente fluente, sta bella. Leonina, ci vorrebbe Leonina. Una foto, non so se c'è qualcuno che scatta una foto alla nostra presentatrice, Rosanna. Ma abbiamo un'altra fluente chioma. Ti sei presentata tu? Ah no, io sono Carla, buonasera. È vero che tutti ti conoscono, però è comunque bene ricordarlo. Buonasera radioascoltatori, e viene presento un'altra. Buonasera, ciao da Cristina. Ciao a tutti. E noi stasera siamo un po' strettini qua, abbiamo qualche microfono in meno, quindi facciamo un caloroso saluto a Cristina. È una puntata speciale dei colori dell'anima, la puntata di speciale Natale, dove siamo un po' quasi tutti qui. Un abbraccio speciale a Barbara e a Giampaolo, che non hanno avuto il piacere di essere con noi per problemi vari, e quindi un abbraccio speciale, ma ridò la parola a Rosanna. Allora, dunque, oggi 9 di dicembre abbiamo pensato di intanto di fare una trasmissione collegiale, e infatti adesso tra un attimo sentirete anche le voci di tutti gli animatori radiofonici dei Colori dell'Anima. E abbiamo preso l'occasione appunto del Natale per fare una trasmissione che vorremmo chiamare La Radio Che Passione. Un po' per così, per raccontare fra di noi, ma naturalmente anche a chi ci ascolta, quali sono i motivi che ci spingono, che ci hanno spinto a venire in radio, e anche naturalmente chiacchierare sul Natale, ricordare qualche trasmissione che abbiamo fatto. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, ma io continuerei con gli altri animatori e le altre animatrici. Buonasera a tutti, sono Anna Maria, e un po' che non ci sentiamo. E questa è una bellissima trasmissione, perché finalmente siamo tutti insieme. Non vi dico cosa abbiamo fatto prima. Non lo diciamo. Buonasera a tutti, io sono Rossella, l'ultima squadra, gli ultimi arrivati, ma pimpanti, e vi lasciamo immaginare cose che abbiamo fatto prima di parlare qui con voi, avere il piacere di intrattenervi. Infatti, eccomi qua, un grande saluto da Leandro, della squadra di Rossella, Tiziana e Leandro. E Dulcis in fundo. Buonasera. Se non avete capito, avete capito. Forse avete capito, non avete capito. A me non ho capito, ma non mi interessa. Forse avete capito. Buonasera da Angelo. Allora, buonasera a tutti. Quindi tra un attimo cominceremo la nostra trasmissione. Non so se Angelo ha già pensato ad un piccolo brano musicale. E adesso ce lo manderà fra poco. Cercheremo di farvi ascoltare dei brani natalizi, essendo appunto nel periodo, e cominciamo quindi già sin da ora a fare gli auguri a voi tutti. E rieccoci qua, siamo di nuovo in linea con I Colori dell'Anima. Questa sera l'equipe al completo, lo studio è gremito di gente. E non vi diciamo cosa abbiamo fatto prima, però qui nello studio ci sono tanti odori invitanti. Cristina, uno potrebbe anche fraintendere cosa abbiamo fatto prima. Due uomini in regia, quattro donne, mi raccomando, specifichiamo per piacere, sennò cadiamo nell'equivoco. Cinque donne, che ora sta per arrivare un'altra. Cinque donne, Leandro, qua non ce la facciamo, La sorpresa della serata. Seguiteci se volete scoprire fino alla fine cosa è successo questa sera negli studi di Radio Riveleremo. Siamo alle 9:57. Prima, ecco, l'ultima donna è arrivata, sta arrivando tra di noi. Adesso, prima di dare il benvenuto, e quindi ben presto vi presenteremo un'altra animatrice dell'equipe di Leandro Rossella, Tiziana. Ecco, e si sveste non troppo, Tiziana, attenzione. Quindi arriva anche lei, ha saltato la parte introduttiva, però recupererà. Eccola, si appropinqui per dare la buonasera a tutti. Ciao, arrivata. Buonasera. Ciao, ciao Tiziana. Ciao, ciao Tiziana, buonasera, benvenuta. Grazie, grazie mille, scusate per il ritardo. Non c'è problema. Vogliamo la giustifica dei genitori, firmata, non copiare la firma di tuo padre. Va bene, va bene. Motivi di famiglia o motivi di salute? No, no, no, no, il traffico, sempre il traffico, anche a mezzanotte sempre il traffico. Vabbè, a mezzanotte c'è un certo traffico, poi dipende da quale, però... Effettivamente. Magari non hai la macchina, magari il problema di Bruxelles è il traffico. E chi non lo sa? Ok. E io penso che c'è qui il nostro chef, il nostro coordinatore qui, che è Rosanna. Lo possiamo dire, Rosanna? Possiamo rivelare la tua vera identità di leader di questa equipe dei colori dell'anima? Io volevo innanzitutto, dopo un altro anno insieme, volevamo tutti ringraziarti per il tuo lavoro, che sai, a volte sembra un lavoro in sordina, un lavoro di coordinazione, non è un lavoro da prima linea, però è un lavoro che permette a noi tutti di lavorare bene, quindi un applauso dallo studio, brava Rosanna! Grazie mille! Arrossire. Grazie, grazie. No, è vero, è un lavoro, intanto mi piace coordinare, quindi lo faccio volentieri. Mi piace anche poi soprattutto quando le persone mi rispondono alle mail, e questo non è che succeda... Non succede sempre, però insomma sono contenta di farlo, e devo dire, con delle persone entusiaste come siete voi, è un bel piacere, quindi grazie a tutti voi. Allora, dunque, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che questa è una puntata collegiale, quindi con tutti gli animatori. Come parla colori. Bella proprio, con la nostra coordinatrice. Avete sentito proprio, cioè come arti collegiale, cioè una cosa proprio, cioè se fossi stato io sarebbe stato collegiale, mi scusi coordinatore, noi chiudiamo il microfono. Viva la coordinatrice, coordinatore! Va bene, fate gli spiritosi. Allora, stavo dicendo, una trasmissione collegiale, intanto per fare un po' il punto della situazione, siamo arrivati alla fine del 2013, vi ricordo anche che lunedì 16 ci sarà comunque l'ultima trasmissione con Carla, Angelo e Giampaolo, quindi mi raccomando, seguiteci anche lunedì, però diciamo che ormai stiamo per chiudere il 2013 e ci siamo detti, perché no fare un po' una raccontare un po' noi stessi e fare anche un po' un bilancio di quello che abbiamo fatto durante quest'anno. E comincerei volentieri con Cristina. Magari Cristina, ci vuoi raccontare perché hai cominciato a fare radio? Allora, l'ultima sul registro, sono la prima a essere interrogata. No. Sì, perché il mio cognome inizia con la S, quindi è l'ultima, quasi l'ultima. Quasi. Qual era la domanda? Allora. Perché ho cominciato a fare radio? Ho cominciato 2 anni fa, sono già passati 2 anni, con Monica, che adesso è partita in Italia e che mi ha invitato in trasmissione a parlare di musica, musica tradizionale, tarantelle, pizzica, che sono un po' i simboli della mia terra. E poi mi è piaciuto così tanto che quando Monica ha detto vuoi venire ad aiutarmi, io ho detto subito sì. Ed eccomi qua. E adesso continuo a fare la trasmissione con Barbara, che voi tutti conoscete molto bene, che stasera non è qui con noi, però le mandiamo un abbraccio molto forte perché è malata, raffreddata. Ciao Barbara! Ciao Barbara! E quindi niente, è un piacere fare la radio perché è un po' un momento spumeggiante come lo spumante. È molto divertente parlare con la gente, soprattutto quando la gente non ti vede. E voilà. Vuoi parlare di qualche trasmissione in particolare che ti è sembrata così particolarmente interessante? Ecco la tarantella. Naturalmente avrete indovinato di quale regione è la nostra amica Cristina. Di dov'è Cristina? Lo sei, lombarda. Ecco, piemontese? Ecco, dopo questo profumo di Puglia. Sono pugliese, come si sente benissimo dal mio accento. Ma non l'avevo mai detto che tu sei pugliese. Dai. Incredibile. Allora, questa, la trasmissione di quest'anno, sì, una puntata che mi piacerebbe ricordare oggi è la puntata contro lo stress. Abbiamo fatto una puntata contro lo stress perché... Già oggi penso che ci vuole per tutti. Sì, sì, infatti, abbiamo cercato di dare qualche consiglio, qualche tecnica, un po' di come respirare, cosa fare, qualche associazione, un po' di yoga. Per esempio lo yoga del ridere. Che sì. Conoscete sicuramente, magari facciamo stasera una prova di sì, yoga. Sì, io lo conosco, ma spiegami sì. Un po' meglio. Che cos'è? Sì, per, sì. Lo yoga del ridere è una disciplina molto seria che si pratica in gruppo ridendo. Okay. Si fanno delle sì. Mezz'ore, ore di risate. Cioè si raccontano barzellette? No, non necessariamente. C'è una persona che coordina tutti gli altri e che li fa iniziare a ridere e le risate si scatenano così, da sole. Te lo chiedo perché ho assistito una volta alla presentazione appunto di questo yoga della risata e mi ha suscitato subito molto curiosità. E la cosa che mi è rimasta molto impressa è questa, che questa ragazza, che in realtà era una donna, che aveva avuto molta esperienza, ci diceva: alla fine immaginatevi questo, se al posto di cominciare ad arrabbiarsi perché l'autobus non arriva, perché c'è troppo traffico nella strada e la macchina non parte, quello non arriva, uno si fa una bella risata come una matta e poi dice che la risata è contagiosa. Esatto. E io ogni tanto ci provo, mi sembra un po' una pazza in mezzo alla strada quando aspetto l'autobus e comincio a ridere da sola. Però è interessante. Avete avuto qualche ospite in particolare? Abbiamo invitato una nostra amica Valentina, che saluto anche se ci sta ascoltando stasera, perché lei è appassionata di yoga e ci ha raccontato un po' le sue esperienze, ci ha dato qualche informazione in più, anche le tecniche di yoga, la respirazione, il fatto che noi in Occidente pratichiamo solamente una parte dello yoga, che è quella più fisica, più ginnica, appunto le posizioni, la respirazione eccetera, però lo yoga in realtà è una filosofia molto più profonda, molto più grande. Noi dall'Oriente abbiamo preso solo questa parte perché ci sembrava più utile. Invece c'è molto di più da imparare. E abbiamo parlato anche del punto più assoluto, l'assenza, la completa assenza di disturbi della realtà. Il riuscire a meditare, quindi a stare semplicemente in un posto senza farsi influenzare dai pensieri, da quello che capita intorno, assolutamente assenti, pur essendo presenti. Siamo presenti tutti qui, tutta l'equipe dei Colori dell'Anima, e vogliamo lanciare il prossimo brano che ci presenterà Angelo dalla regia. E infatti il prossimo brano, proprio parlando di yoga che si ride, com'era Leandro? Una cosa che si ride, voglio presentarvi la The Laughing Song di Johnny Wilford Orchestra. A voi, ridete, ridete, ridete! Oh, oh, oh, oh! Buonasera e ben ritrovati ai Colori dell'Anima. Sono le 21:21, ecco, 21:21. Siamo qui a Saint-Gilles e trasmettiamo in diretta i Colori dell'Anima su Radio Alma. Come tutti i lunedì dalle 21 alle 22 siamo in diretta, siamo quattro equipe, una più bella dell'altra. E stasera siamo tutti insieme per augurarvi buone feste, malgrado ci sia ancora un'altra trasmissione lunedì prossimo, lunedì 16, però questa sera è una serata speciale, una serata di festa, una serata di auguri, è una serata in cui facciamo un piccolo bilancio delle nostre trasmissioni dell'anno. E io sono Carla e una delle quattro equipe, quindi un saluto a Giampaolo che non è con noi, che fa parte della mia equipe. E... Sì, siamo due campani e un siciliano. I siciliani, devo dire la verità, che spopolano. E ci piacciono, che vi piace pure a voi il siciliano. Senti Carla, ma raccontaci un po', perché voi siete due campani, ma tu sei una cafona. Scusa, puoi ripetere? E Angelo è un pescatore. Eh sì, io... Quale diciamo... pescatore? Si dice pisciaiolo. Bedamaggio, pisciaiolo. Eh sì, i miei avi coltivavano la terra e i suoi avi pescavano. I suoi avi erano cafoni, i miei no. Però erano pesciaiuole. Diciamo cosa significa cafone, Carla? Quelli che lavorano la terra, è questo in realtà, niente. Il che io non ci trovo niente di offensivo, per cui. No, ma a noi ci piace quando vi prendete in giro, quindi vogliamo un po' mettere il dito nella piaga. Ma a voi vi piace il salame? Assai. E a loro vi piacciono i cafoni? Assai, e questo è vero. E via dicendo, con insalate varie. E Carla, tu invece da quanto tempo fai radio? Allora, tu se... la tua voce la conosciamo, la tua voce è la sigla di questa bella trasmissione. Un attimo. Senti, me l'ero dimenticato. Con la gentile, anzi no, io sono la collaborazione, ma in realtà diciamo l'ha scritta Angelo, quindi io ho prestato la voce, non più di questo. E che voce, ecco, che possiamo ascoltare. E guardo Rosanna perché vorrei un attimo un cenno di approvazione. È gennaio 2012 che abbiamo iniziato la trasmissione, sì, ok, mi sento rincuorata. Quindi è quasi 2 anni, quasi come Cristina, forse 2 mesi prima di Cristina. Anche noi nasciamo come ospiti, prima c'è stato Angelo come ospite e poi il mese dopo io ed Angelo. Per quanto riguarda anche noi, per la musica, era un gruppo che si chiamava Calzone Gamberetti, che per il momento è defunto, nel senso che si è sciolto, però ecco, è stata una porta d'entrata alla trasmissione che niente, ci è stata proposta e è stato vero. Abbiamo intervistato io e Monica. Mi ricordo. Dove abbiamo avuto anche questo bellissimo contrattempo, cioè nel senso un bellissimo blackout, insomma, funzionavano solo i microfoni. Ed abbiamo avuto l'onore di ascoltare la voce di Carla dal vivo. Sì, però è stato abbastanza scioccante, perché in realtà sì, esatto, facevamo abbastanza ridere, perché doveva partire un disco con una, appunto, una registrazione nostra di questo gruppo. Ebbene, non partiva, quindi con imbarazzo generale, c'è Cristina che cercava di sostenermi, faceva corretti, batteva le mani, clap, tutto è stato, diciamo che abbiamo iniziato nel peggiore dei modi, però poi ci siamo cercati di riprendere. Vabbè, mai come noi. La prima puntata nostra è stata terribile, ve lo racconteremo ben non presto. Non partiva neppure una canzone. E indovinate chi era in regia che doveva mandarle le canzoni? Ecco, alleluia. Comunque, per quanto riguarda la domanda di Rosanna, perché facciamo radio? Penso di parlare al nome di tutti e tre, di me, di Angelo e di Giampaolo, e penso che è proprio interessante conoscere persone e avere modo anche di invitarle qui a parlare della loro storia, di un percorso di vita assolutamente singolare, perché ognuno di noi ha un percorso differente, e poter permettere agli altri di ascoltare delle storie altrettanto particolari che abbiamo occasione di incontrare. Quindi abbiamo avuto un interprete del linguaggio dei segni, abbiamo avuto una puntata che mi è rimasta impressa, è stata quella di non ricordo se settembre o ottobre, penso sia settembre, sulla Maschera, che è un gruppo napoletano partenopeo, e avevano appunto fatto un video di un brano che si chiama Pulcinella, anzi, che è bellissimo. Vi invito ad andare su YouTube e surfare e scrivere Pulcinella della Maschera, che è un brano veramente veramente bello, e tra l'altro il video è bello ed è stato registrato da un regista che l'ha fatto come regalo a questo gruppo, e secondo me gli ha fatto davvero un regalo, perché poi gli ha permesso veramente di avere tantissimi click sul loro video, quindi di farsi conoscere. Adesso a Napoli stanno suonando tanto, quindi ecco la possibilità di far ascoltare, fare conoscere agli altri qualcosa che sia amato in prima persona, e senza la radio. Adesso ve lo dico io, la vera ragione per cui noi tutti abbiamo iniziato a fare. Diccela, diccela. Era un lunedì lontano. C'erano tante cose da dire, ma il motivo per il quale abbiamo iniziato a fare radio era uno solo. Respirate. Respirate. Non avevamo da fare. Eccoci qua. Io sono Anna Maria, adesso riprendo il flambeau, come si dice da Carla. per parlare un pochino invece di quello che abbiamo fatto io e Rosanna a grandi linee, e poi Rosanna entra nel dettaglio, nel particolare, perché è una precisa. Noi abbiamo avuto molti ospiti quest'anno, molti ospiti, e devo dire tantissime esperienze estremamente arricchenti. Noi siamo andati in Africa, siamo andati in Kosovo, abbiamo fatto il giro del mondo con Emergency, siamo rimasti qui a Bruxelles con dei gruppi che fanno teatro. Insomma, un sacco di persone interessanti abbiamo conosciuto. Bellissimo, secondo me. E questo è il segreto della radio. E la cosa bella, che la cosa che ha colpito me, io sono Tiziana, e ti ho interrotto, scusa, però volevo condividere con voi quello che stavo pensando ascoltandoti, che il bello della radio, secondo me, è proprio quello di comunicare qualcosa a un pubblico che non sai quale sia, non sai chi, quante persone e chi è in ascolto in quel momento, cosa stanno facendo. Sai che forse non sia meglio così. Sì, a volte sì, però è il fascino, secondo me, della radio. Tu siamo parli da una media dai 3 ai 10. Eh sì, probabilmente. Giusto, la famiglia, se li conti, gli amici. Però è la cosa bella, che tu hai voglia di comunicare qualcosa perché qualcosa ti sembra interessante e ti fai alla fine una chiacchierata con quella persona e vuoi raccontarla però a tante altre. Sì, la vuoi raccontare e poi ti accorgi che in realtà non ne sai assolutamente nulla. Sì, e poi per fortuna che hai gli ospiti che ti dicono no, non è proprio così, è in quest'altra maniera. Si impara tantissimo, veramente tantissimo. Senti, Anna Maria, qual è stato l'ospite che ti è rimasto più impresso, probabilmente appunto per questa bella storia che ti ha fatto scoprire, per aver disegnato un quadro che tu magari non pensavi proprio che potesse esistere? Ma noi abbiamo avuto un ospite che è venuta più volte, che si chiama Fiorella, e ci ha raccontato sempre cose diverse. E è molto impegnata in diverse cose, specialmente nel sociale. È venuta una volta per parlarci della VAI, è venuta una volta per parlarci di profughi, mi ha fatto leggere delle poesie che mi hanno fatto veramente emozionare. È stato un personaggio che mi è piaciuto molto, una signora veramente deliziosa. Posso chiederti cos'è la VAI? Perché io non ho sentito parlare, quindi magari neanche i nostri radioascoltatori. Sì, VAI è l'associazione che si chiama Volontarie Assistenza Italiani. Uh-huh. Ed è un'associazione che esiste qua in Belgio e che opera a Bruxelles in modo particolare da moltissimi anni. In pratica è nata come associazione per aiutare le persone ammalate e in particolare per dare una mano ai parenti degli ammalati italiani che venivano qui a trapiantarsi di rene, ma che però oggi in realtà si occupa soprattutto di dare un sostegno agli italiani che hanno serie difficoltà, quindi proprio magari a dargli il pacco da mangiare, perché c'è gente che si trova in situazioni molto difficili. Scusate, voglio farvi notare la professionalità di Rosanna. Verrà interrogata pure lei, ci dirà tutti i suoi segreti tra un poco, eh? Esattamente. Bene, Rosanna, dai, dici qualcos'altro. Arriva la Rosanna, arriva! Allora, io volevo semplicemente così aggiungere brevemente così, qualche informazione, come diceva Anna Maria, andare un po' nei dettagli. No, andare nei dettagli no, però per esempio quest'anno è capitato, o forse l'abbiamo fatto capitare, che molti degli invitati stavano per realizzare o per sostenere delle attività teatrali, e infatti le ultime puntate, quella di settembre, ottobre e novembre, sono state proprio attorno ad attività teatrali. Per esempio nel mese di settembre c'era uno spettacolo che si chiamava semplicemente Donna, e quindi attorno a questo titolo, era uno spettacolo che è stato realizzato qui a Bruxelles, abbiamo fatto una puntata sulle donne che per noi sono state più così significative nella nostra vita personale, ma anche ovviamente di donne famose a livello, non so, di scienza, di letteratura. E poi a ottobre è venuto Vito Laraspata, che ci ha parlato tra le altre cose del suo spettacolo che è andato in onda qualche mese fa. Vito infatti, tra le altre cose, dirige un gruppo teatrale che si chiama Bottega Magica, e l'ultima è stata la trasmissione intitolata Italiani a teatro, la trasmissione di novembre, e allorquando è venuta Carla Guida, la regista di uno spettacolo che c'è stato qui a Bruxelles qualche settimana fa, ed era uno spettacolo molto interessante che si chiama La Selezione, ma al di là dello spettacolo realizzato ovviamente da una compagnia amatoriale italiana, hanno raccolto dei fondi che poi sono stati dati all'associazione Emergency, associazione che tra l'altro da qualche mese ha una sede qui a Bruxelles, è un'associazione italiana, però appunto da qualche mese ha una sede anche qui, quindi è stato molto bello conciliare, diciamo, gli aspetti culturali con quelli però di tipo più sociale, e penso che Bruxelles è una città che si presta molto a queste attività, quindi è bello andare alla loro scoperta. Bene, senti, io volevo aggiungere che appunto Emergency... Volevo aggiungere che mi sembra proprio una bella idea questo di riuscire a conciliare cultura e sociale, e che Emergency tra l'altro cerca sempre dei volontari di continuo, quindi se qualcuno in ascolto avesse voglia di donare un po' del suo tempo, potete contattare i ragazzi di Emergency, hanno una mailing list, sono molto attivi ed è molto simpatico ed è molto umanamente piacevole donare un po' del proprio aiuto agli altri. Contattate, noi riveniamo in regia e lanciamo il prossimo brano di Damiano La Rocca, tratto dall'album Le Mezze Stagioni, Nostalgia di te. A voi radioascoltatori. E rieccoci in studio! Io sono Rossella, siamo qui sui Colori dell'Anima. Dovete sapere che in questa stasera c'è Angelo in regia. Di solito c'ho Leandro, il quale muove agitatamente le mani quando è il mio turno di parlare. Eccolo, quindi... eccolo Leandro, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti! Che questa volta sta con noi in studio. Invece siamo abituate a parlarci l'una con l'altra con Rossella, e poi ogni tanto c'è Leandro che interviene con le sue canzoni e anche con le sue belle frasi, perché sì, abbiamo istituito questa bella cosa di leggere alla fine della puntata sempre un passo, una poesia o qualcosa, perché Leandro ha questa voce profonda, una vocina così. Ma come, sono Cristina, sono di nuovo ritornata, ma come vi è venuto in mente di fare una trasmissione alla radio? Come mai? Ma la nostra sorte è stata la stessa degli altri, in sostanza siamo stati invitati a una trasmissione radio. Copioni! Ma credo che di aver capito che un po' tutti hanno avuto questa esperienza, e il modo migliore di appassionarsi alla radio è proprio quello di farla. Nel momento in cui la fai, penso che rimani un po' catturato da questa magia, da questa atmosfera che si crea durante la trasmissione. Dal caldo dello sì, studio. O dal freddo se stai in regia in estate. O in inverno, quando c'è l'aria condizionata, soprattutto in inverno. E dalle sorprese anche che capitano appunto in regia, perché ecco, sicuramente ci siete passati tutti voi prima di noi, ma le prime nostre puntate sono state veramente un capitombolo. Ricordo la prima in particolar modo, durante la quale praticamente avevamo pianificato di ascoltare 6 canzoni, e di queste 6 ne entrò una. Non riuscivamo a far passare neanche una canzone. No, non partiva nulla. No, non era possibile. Infatti quella sera avevamo con noi in studio Irene Day. Grande Irene. Sì, che è una ragazza che ha fatto molta esperienza all'estero, che conosce molto bene gli italiani all'estero, la lingua italiana, che ci ha dato veramente spunti per chiacchierare, per parlare, per affrontare la serata in maniera molto simpatica in realtà. Però ne abbiamo sudate di camicie. Diciamo sera. Che anche per noi fare radio è una specie di viaggio. Infatti è vero che proprio, insomma, uno dei temi che più ci contraddistingue è proprio quello dei viaggi, dato che in ogni trasmissione comunque noi parliamo di qualche viaggio, chiedendo anche Abbiamo proprio una rubrica della nostra Serena che ci dà sempre dei suggerimenti utili, una travel blogger che ci dà sempre consigli utilissimi su prossimi viaggi da fare, e tante volte riesce pure a darci un consiglio a tema, secondo qual è il tema della puntata. E possiamo dare adesso un'anteprima, ci sarà un'altra rubrica, cari radio spettatori, telespettatori, che curerà la nostra Rossella, sarà sì, tutta una sorpresa, da gennaio. Da gennaio. Rossella, ma io mi chiedevo una cosa, lo so che Giampaolo forse potrebbe rispondere insieme a te a questa domanda, ma com'è fare una trasmissione radio con una coppia? Ah, bella domanda, Carla. Guarda, Tiro, è stato veramente una sorpresa per me fare questa avventura della radio con Leandro e Tiziana, perché ecco, noi ci siamo conosciuti alla Corale di San Bonifacio, tutti e tre siciliani. All'inizio eravamo tre amici, però ecco, sì, all'inizio non eravamo una coppia, però Tiziana aveva visto che gli occhi di Leandro erano a cuoriceno. E poi ecco, questi occhi a cuoricino hanno portato i suoi buoni frutti e i ragazzi sono diventati una coppia. E insomma, è molto simpatico in realtà, devo dire la verità, perché diventa un po'... Ma si baciano, Rossella, ma tu parli. Se baciano. Si fanno fare i monologhi, ma e si baciano con la lingua. Guarda, li becco sempre no, io. No, ragazzi, smettetela, guarda. Basta adesso. No, per favore, che c'è la mamma in ascolto. Per favore, ragazzi. Ciao, mamma. Cerchiamoci di metterci in contatto con la Sicilia per vedere Giampaolo cosa ne pensa. Vediamo un po'. E ballati, dimmi schietti e maritati. E se non ballati, buono, non vi canto e non vi sono. Se non ballati pulito, ci ludica lo vostro zito. Sciu, sciu, sciu, Giampaolo, sei lì! E ballati, dimmi schietti e maritati. Pronto, chi è? Eccolo, ciao Giampaolo, ciao, ti chiamiamo. Ciao. Siamo in diretta sui colori dell'anima. Ci manchi questa sera. Allora. Ecco. Ciao a tutti, tanti auguri a tutti ragazzi. Ciao Giampaolo. Senti, dove sei in Sicilia tu? Sì, dalla Sicilia, innanzitutto qua mi diciamo c'è il grande pubblico delle grandi occasioni qua collegati da casa Giampaolo, circa 5.000 persone in piazza, fatevi sentire. Il calore siciliano ci piace. Ciao a tutti ragazzi, grazie che ci siete. Protestavano perché siamo stati introdotti da una canzone calabrese. Mi pareva pugliese, Giampaolo, protesto con te, mi aggiungo alla protesta. Diciamo proprio quello. Senti Giampaolo, ma io ti pongo un po' la domanda anche a te, com'è fare la radio con Carle Angelo, con una coppia, diventare parte della squadra, vivere con loro, ecco, questa esperienza? La tragedia. Ecco, meno male che dico, tu schietto. Una simpatica tragedia. È come essere perennemente dentro il set di Casa Vianello. Perché praticamente vedo questi due che mentre io parlo si insultano, che questa Carla con le cuffie in testa e Angelo dietro il vetro che non ti sente ma urla e continua a fare gestacci incredibili. E io cioè, veramente non è semplice perché Giampaolo devi tornare qui in Belgio, non ti preoccupare, torna. Ci piace la tua sincerità, senti, poi tu sei anche un grandioso, cioè ci fai sempre ridere con le tue rubriche, raccontaci un po' invece. Beh, se, Rossella, si vede che non ascolta la nostra trasmissione perché noi rubriche non le facciamo più da mesi. No, non è vero, esatto, dai, che Giampaolo fa quel... Facciamo le rubriche! Paolo, di quando fai il nordico, andate ci piace. Radio tutti i lunedì dalle 21 alle 22, mi raccomando, non fate come Rossella. Che cosa vorresti insinuare? Deve tornare a Bruxelles. Tizia, ti stai inimicando tutti, Giampaolo. Questa era siciliana? Scatenato il pubblico, stanno ballando in piazza. E a Tusa abballano. Senti, a Tusa ballano, no, Giampaolo? A Tusa si balla sempre, per adesso si balla d'un fritto, come dicono da queste parti. Ma non lo puoi dire a noi che siamo qua a Bruxelles, è un po' un insulto. Io penso che qua a Bruxelles... Però purtroppo, ragazzi... Non ci crederete, ma io sono arrivato in Sicilia, sento più freddo di quando le sentiste a Bruxelles. È una cosa veramente incredibile. Ma non ci sono per ora. Alla faccia di quelli che tornano in Sicilia e mi dicono c'era un caldo strepitoso, sono andato a mare. E che c'è tu figlio, tu ce l'hai il Natale in Sicilia. Spiegato. Senti, allora noi ti abbiamo chiamato proprio per questo, per darti un po' di calore e per regalarvi un po' di calore a tutti voi. Grazie di essere stato con noi, Giampaolo. Proprio per, proprio per auguri, auguri a tutta la famiglia, a tutti lì quelli che sono in ascolto. E vi dedichiamo un pezzo bellissimo che in inglese non ci capirete una mazza, ma chi se ne frega! Louis Armstrong, White Christmas! Ciao a tutti, siamo ancora qui con i colori dell'anima, ma siamo in, verso la fine della trasmissione e abbiamo qualcuno in linea, abbiamo Barbara in linea che ci vuole salutare questa sera. Ciao Barbara! Ciao, ciao, ciao! Ciao, come stai? Io beh, un po' il naso, sono un po' raffreddata, un po', però sto abbastanza. Ma dai, dalla voce si sente che stai bene, dai, su, coraggio, coraggio. Ma salutiamo stasera Barbara, che è la nostra, la parte più internazionale della nostra equipe. Visto che abbiamo parlato un po' dello, delle nostre tradizioni, delle nostre regioni, Barbara, tu ci vuoi ricordare di dove sei? Allora, mia mamma è italiana, mio papà è austriaco. E quindi sono metà italiana, metà austriaca. Ma ti senti di più? Che domanda, che domanda. Grazie Angelo che ci manda queste cose commoventi. Che cos'è, Barbara? Cosa, che cos'è? Questa musica! È la, è la, l'inno è austriaco. Ah, sono appunto. Proprio, wow, Angelo, non so come hai fatto a trovarlo, però... Angelo ha i suoi potenti mezzi. Ho chiesto ai tedeschi! Com'è? Non ha capito, dice che ha chiesto ai tedeschi. Ai tedeschi, che quelli non lo conoscono. Torino? Non è quello tedesco, è quello austriaco. Esatto, esatto, non confondiamo. Va bene, Barbara, ci vuoi, cosa ci vuoi dire per la fine dell'anno? Cosa vuoi ricordare della nostra trasmissione? Della nostra trasmissione che non vedo l'ora di cominciare il prossimo anno e che anche noi cambieremo un po' di cose, no Cristina? Abbiamo parlato un po' di... avremo diversi musicisti, ogni volta parleremo di un altro, suoneremo la musica di un altro musicista, non mischiamo ma facciamo proprio una serata, una puntata proprio usiamo solo la musica di quel musicista. Poi temi, abbiamo tante idee, però quelle non le riveliamo ancora adesso. E delle passate puntate non saprei dire perché abbiamo fatto tante diverse. Abbiamo mescolato un po' tutto, anche noi abbiamo fatto un po' di teatro, abbiamo invitato anche degli ospiti stranieri, qualcuno dall'Africa, qualcuno dal Belgio, ci siamo un po' messi a tradurre, abbiamo fatto un po' di tutto, ma credo che il tempo sta stringendo. Quindi Barbara, noi ti salutiamo tutti, ti auguriamo di guarire al più presto. E grazie per la chiamata, vi ascolto fino alla fine. Grazie! Buon anno a tutti! Dai Barbara, puoi uscire dal bagno della discoteca, lo sappiamo che non sei venuta solo perché avevi di meglio da fare, sei in discoteca, puoi uscire dal bagno, vai a ballare, divertiti. Un buonissimo anno, buon Natale e a gennaio. Un abbraccio, ciao. Ciao Barbara. Ciao, ciao. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su. Colori dell'anima. E sono le 21:53, ci restano solo una manciata di minuti per augurarvi a tutti un caldissimo Natale, un bellissimo Capodanno e cosa potremmo dire? Magari un augurio particolare a tutti voi. sono tanti gli auguri da fare, però una cosa bella sarebbe quella di riuscire a vivere il prossimo anno con serenità e giorno per giorno, senza grandissime attese, ma di vivere quello che viviamo giorno per giorno con tranquillità e con pace. Lo so, sono cose un po' banali, gli auguri di fine anno sono un po' banali, però se riuscissimo ad avere cose banali come la pace e la serenità sarebbe davvero bellissimo, almeno io ci terrei. E Barbara, che cosa augureresti ai nostri radioascoltatori? Allora, faccio prima io un salutino, sì, ovviamente auguri di buon Natale a tutti, ricordo anche che noi ricominceremo il 6 di gennaio, quindi ci sarà ancora trasmissione il 16 di dicembre, poi però il 23 e il 30 saremo in vacanza per riprendere quindi il 6, mi raccomando rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima ogni lunedì dalle 21 alle 22, auguri a tutti i radioascoltatori, speriamo di ritrovarvi sempre più numerosi e un abbraccio a tutti da tutta l'equipe, ma naturalmente adesso sentirete i saluti di tutti. Voglio augurare a tutti un buon Natale e soprattutto voglio sperare che tutti vogliate vedere il nuovo anno come una grande avventura, soprattutto una grande avventura. Non pensate più alle cose brutte dello scorso anno, passiamo oltre. Bene, grazie. Allora, io vorrei augurare a tutti quanti di passare, il mio augurio è per le feste, di passare le feste in compagnia, in armonia, di avere tanto calore e tanto affetto, soprattutto alle persone che sono sole, alle persone che vivono delle situazioni difficili. L'augurio seguente? Con l'occasione che c'è il nuovo anno, ricordo a tutti che, insomma, è sempre possibile ricominciare sempre e vi aspettiamo qua in radio perché la radio è il teatro della mente, come dice Steve Allen, non chiedetemi chi è. A letto, l'ho visto, a letto sul telefonino, non se l'era preparata. L'abbiamo beccato e meno male che c'è Angelo, di solito noi non siamo così scorrette da svelare i suoi trucchetti. Allora, io volevo augurare a tutti un buon Natale, un buon anno, in particolare vorrei augurarvi di che sia un anno emozionante. Io vi auguro tante tante emozioni, belle, brutte, che difficili da superare, però io vi auguro a tutti di emozionarvi tanto. Colore! No, non abbiamo detto il colore. Allora, che colore? Io un'idea ce l'avrei. Vai. Io prenderei il colore l'oro. Sì, dai. Brilla molto e del colore del Natale. Sì, che dai, ne dite? Sì, brava. Colore allora, l'oro. Per un brillantissimo Natale, un brillante anno nuovo, e tanti auguri dai Colori dell'Anima, da tutti noi. Ciao ragazzi, all'anno prossimo. Ciao. Un'altra puntata dei Colori dell'Anima è giunta al termine. Anche con voi questa sera sono stati in studio Leandro, Cristina, Anna Maria, Carla, Rossella, Tiziana, Rosanna, Giampaolo in collegamento direttamente dalla Sicilia. I Colori dell'Anima su Radio Alma sono con voi ogni lunedì. Noi vi lasciamo a Frank Sinatra con Let It Snow!